e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, buon inizio settimana da Cuore e Denari. Siamo pronte? Ci siamo? Siamo qua. Siamo pronte e direi di cominciare abbastanza presto, perché i temi da affrontare anche stamattina sono tanti. In realtà giochiamo su questa parola presto, perché era l'acronimo con cui a quanto pare si sarebbe dovuto chiamare il nuovo voucher che parte da oggi. I voucher, per la verità, sono due. Poi in realtà si è chiarito anche il mistero sulla nuova denominazione dei nuovi strumenti per pagare i lavori occasionali e non solo, ma vi racconteremo tutto questa mattina. E se la tua parola chiave è presto, la mia sarà fresco. Parleremo di ghiaccio e non solo, ma anche di conservare gli alimenti nel modo corretto, evitando le contaminazioni. Intanto raccontatemi come vi rinfrescate. 800 24 0024. La musica della rassegna stampa, che come sempre ci ricorda che facciamo partire la settimana anche raccontandovi come parte quella finanziaria. Abbiamo dei rialzi generalizzati fra le borse europee, con Milano che segna più 0,8%, la miglior piazza d'Europa, Parigi più 0,31%, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,23%. Stamattina abbiamo avuto buoni dati anche dall'Asia, con il Nikkei che a Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,76%, riportandosi sopra i 20.000 punti. Magari a noi questo elemento non dice niente, ma dal punto di vista tecnico agli esperti in realtà dà qualche segnale di incoraggiamento anche sul buon andamento delle economie asiatiche. L'euro è a 1,14 sul dollaro. Per quello che riguarda il buon andamento delle borse europee questa mattina, molti lo attribuiscono anche alla chiusura positiva di Wall Street di venerdì scorso, che è stata a sua volta incoraggiata dal dato sulla disoccupazione, che in termini percentuali è aumentata in giugno, ma questo mese l'economia statunitense è riuscita a creare molti più posti di lavoro del previsto, il che lascia presagire nuove strette monetarie da parte della Federal Reserve. A Piazza Affari, migliori titoli, il banco BPM più 2,87%, il mercato scommette sul riassetto di tutto l'ambito del risparmio gestito in casa appunto BPM, poi Banca Generali più 2,13, A2A e Enel sono in rialzo di oltre 1,5%. In negativo abbiamo Yux e Net-a-Porter, dopo la corsa di settimana scorsa il titolo frena per il 2,30%, Telecom Italia meno 1,43%. Andiamo subito al primo approfondimento di oggi. All'inizio sembrava dovesse chiamarsi presto, e invece l'INPS, adesso vi daremo l'indicazione esatta di questo acronimo, l'INPS invece nero su bianco ha chiarito ogni dubbio in merito al nome da dare ai nuovi strumenti che sono stati messi a punto per aprire la stagione del dopo voucher. Proprio pochi giorni fa l'istituto guidato da Tito Boeri ha pubblicato una circolare, la numero 107, per tutti gli appassionati di riferimenti molto dettagliati, con le indicazioni operative per l'utilizzo delle due nuove tipologie di contratto introdotte dal decreto legge 50 di quest'anno, in sostituzione appunto del lavoro accessorio retribuito con i voucher che, come ricorderete bene perché ce ne siamo occupati diffusamente con altre puntate, sono stati aboliti a metà marzo scorso. Di certo da stamattina siamo subito andati a controllare, è operativa la piattaforma telematica dell'INPS a cui inoltrare le domande per poter fare le nuove assunzioni con le nuove modalità. Dicono che l'apparato sia pronto a soddisfare una domanda che ci si aspetta molto elevata da parte di tutte quelle piccole e piccolissime imprese o singoli datori di lavoro, lavoratori che vorranno registrarsi. Le nuove regole prevedono precisamente due diverse forme contrattuali che stamattina vi spiegheremo nel dettaglio: il libretto famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell'esercizio di impresa o di libera professione, e il contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri datori di lavoro. Tutto semplice? Stamattina proveremo a capirlo, intanto ovviamente raccogliendo come sempre le vostre sollecitazioni all'800 24 0024 e poi le risposte degli esperti. Mauro Meazza, Il Sole 24 Ore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Stamattina peraltro Il Sole pubblica un articolato pezzo appunto sull'ABC dei nuovi voucher, con le utilissime domande e risposte che sono tutte quelle che noi ci stiamo facendo in queste ore. Voi le riportate nero su bianco, Mauro. È così, perché come sempre e come dicevi tu, è tutto molto semplice finché non devi usarlo, e anche in questo caso, trattandosi poi di uno strumento che parte solo telematico, esatto, e questo è importante segnalarlo, perché è previsto poi il coinvolgimento dei patronati, dei CAF, consulenti del lavoro anche, però non è immediato, quindi può darsi che oggi, se uno avesse bisogno ma per qualche motivo non sa o non può usare internet, sia un pochino in difficoltà. Tu subdolamente sei già andato a controllare questa mattina se la piattaforma funzionava. Beh, lo hai fatto prima delle 8 e quindi... Non avevo bisogno, diciamo, in questo momento né di una badante né di una ripetizione, una babysitter, però... Mi piaceva sapere neanche se di un già, giardiniere. Neanche di un giardiniere, non avendo il giardino, però sono andato a controllare lo stesso. No, possiamo confermare, abbiamo verificato ora, come dicevi, esatto, che il meccanismo è operante. Attenzione, perché bisogna iscriversi sia prestatore che committente, quindi chi dà il lavoro e chi lo svolge devono essere iscritti entrambi per poter poi usufruire di questo voucher. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori, a cui chiediamo intanto se usavate il vecchio strumento del voucher, per che tipo di collaborazione, come datori di lavoro, come lavoratori, raccontateci come vi siete comportati anche in questi mesi di così limbo, e se vi è chiaro il funzionamento dei nuovi strumenti che vengono introdotti ora. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666, oltre a Mauro Meazza, che è già esperto, abbiamo invece un esperto esperto, che è Luca Caratti, della Fondazione Consulenti del Lavoro, che salutiamo. Benvenuto anche a lei, dottor Caratti, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno. Senta, già assunto qualcuno, invece lei stamattina, scherzi a parte, ha dato un'occhiata alla piattaforma, è intuitiva, oppure offre già motivi di grattacapo a chi ne avrà bisogno? Beh, dunque, correttamente, come si diceva, al momento come intermediari, pare non essere ancora abilitati all'accesso, quindi ci manca un pochino l'operatività da questo punto di vista. Abbiamo già verificato. Cioè, se lei fosse un privato potrebbe teoricamente accedere, in quanto consulente del lavoro non può farlo? In questo momento pare proprio di no, nel senso che ho fatto un esperimento prima, una prova prima, però con le mie credenziali non riesco ad accedere. Adesso riproveremo un po' più avanti, magari solo una questione di tempi. È una discriminazione, insomma, non vogliono che il consulente del lavoro vada a vedere quello che non funziona per poterlo poi riportare al sole 24 ore. Non vorrei dire una cosa sciagurata, ma si è previsto appunto il coinvolgimento dei professionisti, ma entro luglio, che è una formula generica. Esatto. Vabbè, visto che siamo già a metà mese, sarebbe... Sì, siamo tutti fiduciosi, certo, naturalmente, che avverrà per tempo. Certo, no Mauro, noi abbiamo giocato prima sulla questione del nome, Presto, che in realtà è un acronimo di prestazione occasionale. Temporanea, esatto, e in realtà appunto si parlava qualche settimana fa del fatto che questi nuovi voucher si potessero sintetizzare in questo modo, ma è stata una leggenda metropolitana, una favola, cosa è successo esattamente? No, perché sono state delle dichiarazioni, tra l'altro anche lo stesso presidente dell'INPS che aveva parlato di questo Presto, ne avevamo parlato poi sul Sole 24 Ore, però poi nella circolare, che come sempre insomma tutti ci guida, e la circolare che già ricordavi tu in apertura, abbiamo scoperto che invece i termini sono libretto famiglia e CPO, contratto di prestazione occasionale, quindi non cercate Presto sul sito perché non c'è, cercate invece prestazioni occasionali. I termini, ripeto, come dicevi tu, ma è bene ribadirlo, sono suddivisi perché l'uno è per chi non esercita attività di impresa, non è un lavoratore autonomo che assume qualcuno, che prende in carica qualcuno, ma invece è per le famiglie, quindi libretto famiglia, il singolo, anche la famiglia, si può intendere anche il singolo che ha bisogno, che so, di due ore di una prestazione di un giardiniere, di una badante, un di un'infermiera, un cuoco ad esempio. Il cuoco, ecco, il cuoco quello mi piace di più della badante, Nicoletta. Anche mi a me. Più perché positivo. Tu ti ho guardato e hai detto subito badante, poi ha corretto, ha detto un giardiniere o magari una babysitter. Perché la prima cosa che ci viene in mente è quella. In realtà l'ambito delle prestazioni professionali che possiamo retribuire col voucher, anche se siamo delle famiglie, Mauro, è molto molto ampia. Adesso ci torneremo perché è già tempo di andare a sentire cosa succede sulle strade italiane, però so che questo è compito tuo, non te lo voglio rubare. Vabbè, come da contratto, anche se fuori orario. Traffico! Cuore e denari. Ti è piaciuta, eh? Sono veramente emozionato. Questa ricerca musicale, però invece guarda, significa che tu Cuore e denari non lo ascolti tanto spesso, perché noi abbiamo sempre la canzone adatta per ogni argomento, sia di cuore che di denari. Abbiamo fatto una ricerca e di se soundtrack. Non è adatta, la cantiamo noi, la adattiamo. Va bene, invece quindi con preparati. Libretto famiglia dovremo scaldare i chapter 11, come sai. Sono molto contenta, ma anche con il contratto di prestazione occasionale, se non ti dispiace, devi darti da fare. Avevamo già ipotizzato con Alessandro Milan la mattina di chiamarlo Cor. copro, poi ci hanno detto che forse non era un termine elegante. Perfetto. Dottor Caratti, Fondazione Consulenti del Lavoro, ha sentito qua. Allora, in apparenza ci si diverte, ma ci si diverte anche in verità, però si prova anche un po' ad alleggerire qualche volta degli argomenti che sono un po' indigesti alle famiglie, ai contribuenti, alle imprese. Questo dei nuovi voucher magari in apparenza può anche esserlo, perché chiaramente bisognerà prendere un po' di confidenza con la piattaforma telematica dell'INPS per iscriversi nel caso in cui si abbia bisogno appunto di esercitare il proprio ruolo di datore di lavoro e quindi remunerare delle professionalità con queste nuove modalità, sia nel caso in cui si diventi utilizzatore del voucher. Senta, mi fa la grande differenza, ce la spiega la grande differenza fra le due nuove forme appunto contrattuali? Abbiamo capito che una la possono usare le piccole, piccolissime imprese e l'altra appunto le famiglie, ma ci sono delle differenze molto importanti anche per quello che riguarda gli importi in gioco, ed è proprio su questo punto che si è espressa con molto dettaglio la famosa circolare IMSS della quale parlavamo prima. Dottor Caratti. Sì, esattamente, abbiamo questi due grandi gruppi, quindi da una parte questo CPO, che abbiamo capito si chiama in questo modo, ancorché un po' come prima il lavoro accessorio si chiamava voucher per gli amici, lo chiameremo presto, e dall'altra parte il libretto di famiglia. Evidentemente la prima tipologia è... Quindi voi lo continuate a chiamare presto, anche se non esiste questo da nessuna parte. A me piace come termine più familiare. Usiamo ecco, no, però l'importante è che non lo vadano a cercare le persone, no, perché non lo trovano. Poi se lo assolutamente cerco. Nel portale dell'istituto occorre cercare prestazioni di lavoro occasionale, proprio questa è la maschera iniziale della maschera del sito web dell'istituto stesso. Dicevo, due differenze fondamentali. Il primo, riservato appunto ad imprese e professionisti, ma fino a un limite massimo di 5 lavoratori a tempo indeterminato, mentre il libretto di famiglia correttamente riservato a tutti quelli che non ricadono nella prima categoria. La differenza sostanziale per l'utilizzatore è certamente il compenso, perché se per il CPO io avrò un compenso pari a 9 euro netti, dall'altra parte, quindi per l'utilizzatore, quale datore di lavoro sia la famiglia, il compenso netto è parametrato su 8 euro. E così anche i costi, perché i costi sono un pochino più elevati per il soggetto, diciamo così, impresa o professionista, un po' meno per il libretto di famiglia, per la famiglia stessa. Stavo guardando, Mauro Meazza, le domande e le risposte pubblicate oggi dal Sole 24 Ore. C'è un passaggio molto interessante sulle prestazioni professionali fatte in questi due mesi in cui non esisteva un regime dettagliato, no? Abbiamo avuto, l'ho chiamato in una situazione di limbo tra marzo ed ora, in attesa che questi nuovi strumenti appunto fossero configurati dal punto di vista legislativo. Per chi ha eseguito delle prestazioni professionali che potrebbero ricadere sotto queste forme, in realtà non esiste una sorta di sanatoria, un effetto retroattivo, ecco. Al momento la lettura che diamo, poi speriamo sempre che magari qualche ulteriore circolare venga in soccorso, ma mi sembra improbabile. Noi abbiamo un momento fino a cui esistono i nuovi voucher, poi ci sono due mesi, insomma più di due mesi, in cui sono esistiti solo altri tipi di contratti, altri tipi di remunerazione, ma non per queste prestazioni occasionali, e adesso, da oggi, 10 luglio, con le prestazioni da oggi, per quanto abbiamo potuto desumere dalle indicazioni di legge e della prassi, cioè dalla circolare, da oggi si parte con il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Non c'è una fase, per così dire, di recupero, di sanatoria. Dottor Caratti, prima parlavamo del libretto famiglia per le famiglie che hanno bisogno di avvalersi del lavoro di la badante, il giardiniere, la persona che fa ripetizione di matematica al figlio che magari è stato bocciato e va all'esame di riparazione e quant'altro. Per quello che riguarda invece l'altra tipologia, il CPO appunto, ci fa qualche esempio per capire chi possono essere quelle figure che possono utilizzare un lavoratore secondo queste nuove disposizioni? Poi andremo anche a tutti gli adempimenti e anche al meccanismo sanzionatorio, che non è irrilevante. Caratti. Sì, ma dunque diciamo subito che il contratto di prestazioni occasionali, e credo che qui sia opportuno sottolineare proprio la dizione contratto, sia un contratto che può essere utilizzato facendo una valutazione di prestazione di ridotta entità reddituale, e questo è il primo aspetto, quindi nel limite massimo di 5.000 euro per la totalità degli utilizzatori da parte dei prestatori e 5.000 euro per gli utilizzatori da parte della totalità dei prestatori di lavoro. Ma aggiunge anche nel CPO, questo forse vale la pena sottolineare, una qualificazione, cioè una qualificazione di occasionalità o saltuarietà che era stata persa con i vecchi voucher. Quindi sembrerebbe oggi dire il legislatore che la prestazione occasionale per imprese e professionisti sia connotata da una parte certamente da un reddito contenuto, quindi una entità reddituale contenuto, ma dall'altra parte anche proprio dall'occasionalità. Quindi l'esempio potrebbe essere proprio il caso in cui vi sia la necessità di un cameriere, di un pubblico esercizio, di un addetto al bar o di un commesso che abbia per un periodo limitato di tempo necessità di utilizzare un soggetto senza dover instaurare tutta quella prassi burocratica. Tipicamente in questo frangente estivo potrebbe essere particolarmente intenso dunque l'utilizzo di questi contratti? Assolutamente sì, è molto interessante questo aspetto, tenendo anche conto dell'ulteriore limite, nel senso che il medesimo utilizzatore non potrà erogare appunto per ogni prestatore più di 2.500 euro. Certo. Ovviamente quindi significa che sono anche prestazioni ridotte, perché se io immagino 9 euro di quota oraria da riconoscere al lavoratore, è evidente che a questo punto la moltiplicazione è presto fatta. Allora, Renato da Vicenza ci chiede, vi scrivo perché non comprendo, ma se uno chiama un giardiniere o un cuoco, perché deve pagare con questo sistema? I professionisti non sono in regola? Che ne so, era un po', forse li mette a parallelo con tipicamente l'idraulico, Mauro. Sì, sostanzialmente se ci sono delle attività per le quali non è previsto il poter utilizzare questi nuovi voucher, io continuo, perdonate, a chiamarli voucher, dovremmo sempre specificare libretto famiglia, contratto di prestazione. Ad esempio nell'edilizia questa cosa non è consentita. Quello che bisogna intuire per muoversi in questo ambiente qua è quello che diceva proprio il dottor Caratti, cioè queste sono prestazioni di ridotta entità, sono i cosiddetti lavoretti per capirci. Quindi immaginiamo un lavoro fatto in modo estemporaneo anche da una persona che non è esattamente abitualmente un giardiniere. Magari potrebbe essere l'aiutante del giardiniere. Questo è il lavoretto che si va a coprire con questo tipo di contratti. Se sono questi i dubbi che avete, ci ritorniamo subito dopo il giornale radio. Intanto ascoltatelo con noi e vi ricordo che potete intervenire all'800 24 0024 a tra pochissimo. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19.10 su Radio 24. Cuore e denari. Che non si scherza qua con le colonne sonore, tu sei colpito, ma sono ammirato. Bravo, e fai bene ad esserlo. Ma questa prestazione occasionale del cantante, poi l'avete, come vi siete regolate? Vediamo, se non so se l'azienda si è regolarmente iscritta stamattina sulla piattaforma dell'INPS, che comunque è operativa dalle 8 di questa mattina sul portale INPS www.inps.it. bisogna dare la pagina prestazioni di lavoro occasionale. Io sono sulla pagina libretto famiglia e lo avrete capito, stamattina stiamo parlando dei nuovi voucher, chiamiamoli così per farlo capire ai nostri ascoltatori l'argomento. In realtà i nuovi voucher si chiamano, Mauro, se vuoi ribadire? Per le famiglie, libretto famiglia, per tutti quelli che hanno un'attività di impresa, una partita IVA, si chiama contratto di prestazione occasionale, CPO. Benissimo, allora 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande, per completare, per quello che possiamo fare nei pochi minuti di tempo che ci rimangono nel nostro ragionamento sui nuovi voucher, se sarà necessario. Prossimamente ci ritorneremo anche grazie al lavoro fatto dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, che come sempre prende le norme, le circolari dell'INPS, le interpreta, le digerisce, dottor Caratti, e poi emette, divulga delle proprie appunto interpretazioni, dei propri documenti nei quali spiega a tutte le persone come funzionano i nuovi strumenti. Voi l'avete fatto anche per i due nuovi tipi di voucher, lo ribadisco, li chiamo così per sintetizzare, e sono proprio appunto in circolazione. Peraltro voi eravate intervenuti molto attivamente anche quando a metà marzo appunto il governo aveva deciso di abolire i vecchi voucher e avevate sollevato immediatamente le problematiche relative a quella fase di interregno che naturalmente generava molta confusione fra le persone che dovevano utilizzare queste forme di collaborazione e le persone che dovevano essere remunerate secondo queste modalità. Caratti, poi adesso si è sistemato tutto, però insomma è stato un momento complesso. Sì, come si diceva già all'inizio della trasmissione, quel periodo effettivamente era un periodo di interregno all'interno del quale chi aveva necessità di avere delle prestazioni realmente occasionali ma non configurabili con un profilo di autonomia, necessariamente di autonomia, non aveva altri strumenti normativi a disposizione. C'è quindi, però, sì, quindi? No, dico, quindi ben venga oggi una regolamentazione di questo strumento, ancorché molto più stringente rispetto a prima. C'è però, Mauro Meazza, un ultimo scampolo, lo abbiamo definito così, di vita dei voucher, e che riguarda due ambiti: il bonus babysitter. Esatto. E poi anche tutti quelli che comunque sono stati pagati in precedenza con i vecchi voucher e non hanno ancora riscosso il contante praticamente. Sì, se ricordiamo come funzionava prima, uno andava in tabaccheria ad esempio, ne acquistava, e non era raro il caso di chi magari ne prendeva un po', magari chi aveva bisogno della babysitter e sapeva di averne bisogno di lì per un po', allora è stato colto d'infilata dall'abolizione, ma può continuare a usare quei vecchi voucher fino al 31 di dicembre. Vabbè, meno male, perché sì, perché ci mancava colpo, pure che te li abolisse. E certo. Dovessi andare a fare qualche altra fila da qualche parte, magari per convertire con altra carta quella vecchia che avevi. No, e adesso la carta sparisce perché, come stavamo dicendo, oramai telematico. È tutto telematico. Perché è tutto telematico, Mauro? Spieghiamo anche la ratio però di questa tracciabilità dei voucher, che è stata un'altra grande battaglia del ministro Poletti. Questo è la telematizzazione è per evitare, per scongiurare gli abusi, quindi i mali utilizzi per coprire, che so, lavoro dipendente a tutti gli effetti o contratti magari sempre di lavoro autonomo, di prestazioni di lavoro autonomo, ma che sono contratti veri. Faccio un esempio: se c'è questo tetto dei 5.000 euro che riguarda, ce lo chiedevano anche gli ascoltatori, riguarda chi fa il lavoro, chi esegue la prestazione. Allora, in un anno 5.000 euro, capite che parliamo di lavoretti piccoli, ma se io ho bisogno di una persona che so che faccia l'animatore del villaggio turistico e ce l'ho bisogno per 4 mesi, allora è evidente che siamo già fuori da questo tipo di lavoro di prestazione occasionale. Allora la telematizzazione serve a tenere traccia sia di chi offre la possibilità di eseguire la prestazione sia a chi la esegue. È una cosa non irrilevante, si viene pagati al 15 del mese dopo. Proprio come se fosse comunque un piccolo stipendio, giustamente. Sì, che viene erogato poi dall'INPS. Quindi la prima data, come diceva anche Francesca Barbieri nel servizio giornale radio, sarà a Ferragosto, andremo al 16. Esatto. Partiamo già con la proroga. Male, esatto, perché non possiamo neanche goderci il primo stipendio con il nuovo voucher. Nicoletta, vedevi allora, qualcosa sì, di interessante? Un ascoltatore che ci rimanda la sua mail, il suo sms, che a me era sfuggito. Per favore, i voucher possono essere utilizzati ora dagli autotrasportatori? C'è tutto... Io temo di no, ma chiedo il soccorso dell'esperto. Esatto, no, perché ci sono degli ambiti imprenditoriali, settori che in realtà non ne possono fare utilizzo. Luca Caratti. Sì, allora, si ricordava correttamente prima dove ci sono alcuni divieti espressi. In particolare il divieto espresso era nel settore dell'edilizia e tutti i settori affini. Peraltro questa dizione così ampia lascia spazio, insomma, a interpretazioni. Esatto, c'è anche Gianni Dalla Spezia pronto ad intervenire in diretta. Direi che esauriamo la sua domanda così, perché proprio chiedeva si possono fare piccoli lavoretti edilizi con questa modalità. Quindi chiariamo un po' tutto, Caratti? No, diciamo appunto assolutamente no, proprio per l'espresso divieto. Così poi anche aggiunge la disposizione normativa nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o di servizi. Per cui il problema dell'autotrasporto è generalmente un servizio di appalto, ancorché sia specifico come gestione, per cui a oggi sembrerebbe potersi dire escludere la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale in questo ambito. Sa che c'è Mauro Meazza, che è un po' malizioso sempre, e ha sotto mano il testo, immagino, della legge delle disposizioni dei nuovi voucher, e stava proprio controllando che Caratti stava dicendo tutto correttamente secondo le note, quindi l'ha letta, la sa. Si è documentato. Senta Luca Caratti, ritorniamo per un attimo proprio con un esempio agli adempimenti, rimanendo proprio nell'ambito del libretto famiglia. Andiamo alla questione più semplice, no? Io sono una persona che ha bisogno di utilizzare un collaboratore familiare per poche ore a settimana, quindi diciamo posso avvalermi della nuova disciplina. Cosa devo fare io oggi? Cosa deve fare la persona che verrà a lavorare per me oggi, ammettendo appunto di aver bisogno domani mattina di 2 ore di pulizie a casa mia? Sì, allora ribadiamo questo passaggio, cioè una preventiva registrazione sul sito dell'INPS sia da parte dell'utilizzatore che del prestatore di lavoro occasionale. Preventiva quanto? Preventiva prima dell'inizio della prestazione, ma tenendo anche conto di un altro aspetto però, perché l'istituto precisa che queste prestazioni debbano essere acquistate attraverso appunto il versamento, modalità di versamento dell'F24, ma poi sono rese disponibili questi soldi, diciamo così, per spendere le prestazioni entro i 7 giorni successivi. Ciò vuol dire Quindi devo garantire che ci sia su un conto INPS, come lo chiamiamo, esatto, la liquidità per poter pagare la persona dalla quale mi avvalgo. Esattamente. Ma solo per 7 giorni ci sono questi soldi disponibili? No, è un tempo di latenza, mi viene da dire, cioè io oggi verso, però questi soldi non potranno essere disponibili per acquistare poi il libretto di famiglia o anche le prestazioni di lavoro occasionale in senso più generale del termine, per cui di fatto vuol dire io almeno 7 giorni prima mi devo registrare, pagare il modello 24. Quindi se io ho bisogno, per dire, la prossima settimana decido di fare i vetri a casa mia, stiro, eccetera. Mi devo muovere almeno sette giorni prima. Eh sì, perché questo altrimenti non avrei, almeno così pare, di norma, dice l'istituto nella circolare 107 già richiamata, non avrei la disponibilità economica. Dopodiché, una volta che ho fatto questo, quindi utilizzatore e prestatore si sono registrati, importante, il prestatore deve indicare il proprio IBAN perché riceverà direttamente dall'istituto il pagamento della prestazione, dopodiché l'utilizzatore e il prestatore, però in questo caso impresa o professionista, dovranno inviare una comunicazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. Invece il libretto di famiglia non ha questa comunicazione preventiva, ma dovrà essere rendicontata la prestazione entro il giorno 3 del mese successivo lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sì, io e Nicoletta ci guardiamo, non è che sia esattamente il nuovo meccanismo. Vengo io a farti i vetri, tu cosa mi fai? Innaffio le piante perché ogni tanto non cassetti. Ci sei. Esatto. Non è esattamente un sistema più semplice di quello precedente, Mauro, abbiamo un minuto, noi poi dobbiamo salutarci. No, come sempre, dicevo all'inizio, è tutto semplice finché non lo devi usare. Allora, questo sistema viaggia soprattutto con questo canale telematico, non sempre gli utilizzatori sono così avversi al canale telematico, quindi è importante che tempestivamente venga attivato anche il supporto dei professionisti in via ufficiale. Finché non viene fatto, il consiglio è cominciare a familiarizzarsi. Noi naturalmente, sia qui a Radio 24 sia su Sole 24 Ore, continueremo ad analizzare i vari particolari di questo meccanismo. Ripeto, è come creare una specie di conto corrente, quindi uno lo mette a disposizione il richiedente e il prestatore. Ma tu volevo capire, ma quanti soldi metti relativi alle 2-3 ore che pensi di spendere, di dover pagare? O ti fai tipo come che lo chiamano adesso il wallet, no? Fai tipo un borsellino. Sai cosa ti dico? Che ho 100 euro, li metto lì perché intanto prima o poi magari la badante, esatto, vuoi il giardiniere, vuoi il figlio ciuco che ha bisogno di matematica. No, perché è legato alla prestazione che poi uno richiede, come spiegava adesso Caratti, e quindi uno versa in ragione della prestazione che sta richiedendo. Perfetto, facciamo una cosa, facciamoli partire stamattina. Ah, sì. Facciamoli partire stamattina, diamo tempo una settimana per vedere che cosa succede. Ci ritroviamo qua lunedì per rifare un punto della situazione. Mauro, sei d'accordo? È sempre un piacere. Perfetto, Caratti, anche con lei, perché ci sono rimasti fuori altri argomenti, le sanzioni e tanti altri aspetti da considerare, tante altre criticità che voi sgominerete da qui a lunedì prossimo. Per cui ripristiniamo questo appuntamento. Grazie intanto per essere stati con noi. Buon lavoro, Caratti. Grazie. A presto. Buongiorno. Grazie, Mauro. A presto. Grazie a voi. E va bene, abbiamo bisogno di un po' di fresco dopo. Mi sono preso delle scalmane con questo argomento. stamattina. E andiamo al fresco, intanto ci state già scrivendo in tanti come vi rinfrescate, docce gelate, pediluvi, ventilatore, pala, aria condizionata, ventaglio, il ventaglio sta tornando di il moda. Il parco, l'ombra degli alberi. Andiamo. Da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate, e state. Mauro, tu come ti rinfreschi? Io solitamente diciamo con acqua gassata, gelata. A garganella, sì. Quindi tu il ghiaccio non lo metti? No, preferisco non avere il ghiaccio dentro la bibita che perché? Sto bevendo. Ma non lo so, perché mi piace di più che sia... Non on the rocks, ecco. Esatto. Allora, e voi con ghiaccio o senza ghiaccio? 800 24 00 24. Sì, parliamo anche di ghiaccio, perché ci sono tante persone che per rinfrescarsi lo aggiungono alle bevande, e in questi giorni in questo periodo c'è il 60% del consumo di bibite con l'aggiunta di tanto ghiaccio. Naturalmente è questa la stagione, e di ghiaccio parliamo oggi con Luca Settanni, associato del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali all'Università di Palermo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Si è mangiato la granita a proposito di ghiaccio stamattina appena alzato? Ieri sera. Di mandorlo, di caffè con panna? Pistacchio. Ci faccia sognare. Che buona, ci faccia sognare. Invece noi iniziamo dall'ABC, dal ghiaccio, dal cubetto di ghiaccio. Intanto il ghiaccio non è solo l'acqua allo stato solido, e possiamo definirlo un vero e proprio alimento. Professore, sì. È corretto? Sì, è corretto. E così deve essere, e come tale va maneggiato e prima ancora preparato e maneggiato con cura. È esattamente, corretto? Ovviamente non è un alimento da un punto di vista nutrizionale, ma allora certo. È da un punto di vista igienico. Quindi, come dice lei, non è sufficiente che l'acqua sia potabile per avere un ghiaccio sicuro. Il processo di trasformazione e la conservazione devono essere tenuti sotto controllo. Professore, allora, lo prepariamo in casa? Lo prepara il bar con delle apposite macchinette e che sfornano questi cubetti, alcuni sono vuoti, no? Quando li bevi ci infili la lingua dentro, è anche una goduria. E poi c'è invece il ghiaccio industriale, montagne di ghiaccio, i dati ci dicono tonnellate addirittura, che hanno delle differenze. Allora partiamo dal ghiaccio di casa. Quello che prepariamo noi per aggiungerlo alle nostre bevande, anche per mettere nell'acqua, quello sarebbe da fare. Io non riesco mai. Sai che per quando tu fai cuocere le verdure, le lessi, per mantenere il colore brillante delle verdure dovresti tuffarle acqua e ghiaccio, però io non ne ho mai abbastanza perché così non diventano di quel verde un po' svenuto. Ma professore, lei sicuramente questa la sapeva, vapore. Ecco, ma sì, sì, diventano un po', sì, sicuramente sono buone, però il colore si perde un po'. Ma torniamo al nostro ghiaccio di casa, ghiaccio del bar, ghiaccio del industriale. Che differenze ci sono? Punti di forza e punti di debolezza? Allora, sicuramente per il ghiaccio industriale, quindi quello venduto in busta chiusa o comunque venduto per grandi consumi, sì. Viene prodotto applicando il manuale di corretta prassi operativa per la produzione del ghiaccio alimentare. Questo è stato predisposto, questo strumento, dall'Istituto Nazionale del Ghiaccio Alimentare, che ha sede a Roma, ed è stato approvato dal Ministero della Salute nel 2015. Anche a livello di ristorazione collettiva, quindi bar, pub, ristoranti, si applica. Quando non viene applicato bene o non viene proprio applicato, possono subentrare problemi igienici che poi vengono rilevati da diverse ricerche, non soltanto ovviamente in Italia, ma un po' ovunque. Un po' ovunque, tutto il mondo è paese. Senta, professore, ma andiamo al ghiaccio che prepariamo e mettiamo appunto l'acqua nelle vaschette che poi riponiamo in freezer. Abbiamo detto è un alimento, non dal punto di vista nutrizionale, ma è un alimento perché va preparato e maneggiato con grande cura. E noi ci trasferiamo a casa nostra perché sul ghiaccio ne sappiamo davvero poco. Professore, iniziamo dalla preparazione. A questo proposito. Sì, allora, come noi ci preoccupiamo di mantenere e congelare soprattutto gli alimenti in buste chiuse, in contenitori chiusi, dobbiamo preoccuparci anche di mantenere il ghiaccio in queste condizioni. quindi si trovano facilmente ormai contenitori per il ghiaccio che sono provvisti di un coperchio, sì, o addirittura le buste usa e getta, c'è un prodotto di una famosa ditta sulla cui confezione c'è proprio scritto protegge i tuoi cubetti. Questo vuol dire che la problematica dei microrganismi nel ghiaccio è abbastanza attuale. Quindi io mi sento comunque di suggerire per chi continua ad utilizzare il contenitore classico in plastica di lavare bene i contenitori, avere cura di non ricongelare il ghiaccio una volta tirato fuori dal congelatore, pulire anche regolarmente il vano filter, perché noi ci mettiamo di tutto nel nostro congelatore. Si diventa una specie di spazzatura sotto zero. Sì, perché altro perché si forma un aerosol che trasporta vari microrganismi che non possiamo vedere, ma che possiamo ritrovare nel ghiaccio qualora andassimo ad analizzare. E inoltre io considererei anche il ghiaccio come un vero e proprio alimento che scade, quindi rinnovarlo ogni tanto, 4-6 settimane, soprattutto quando le vaschette restano aperte. Ecco, non facciamolo diventare un souvenir, ecco, esatto, utilizziamolo perché anche il ghiaccio scade. Abbiamo chiesto, professore, ai nostri ascoltatori, che hanno subito raccolto il nostro invito, di raccontarci come si rinfrescano. Abbiamo Gabriel dal Frosinone. Buongiorno Gabriel, benvenuto. Buongiorno. Sta fresco Gabriel? Molto. Oh, bravo. Sono sotto 35 gradi, ma sono benissimo. Allora, qual è la sua ricetta fresca? Allora, io 5 anni fa leggi un libro intitolato Il tuo corpo implora acqua, è un medico ricercatore iraniano. Sì. È un libro che consiglio molto. Che lei consiglia, molto. Va bene, sì, lo leggeremo. Sì, era questo, diciamo, lo scopo del mio intervento. Se volete vi dico la ricetta così molto sintetica. Sì, vada. Allora, prima di ogni pasto, mezz'ora prima di ogni pasto, bisogna smettere di bere. 2 ore e mezza dopo il pasto bisogna aspettare e tornare a bere. Così uno può assumere l'acqua lontano dai pasti, diciamo il tempo è questo, mezz'ora prima, 2 ore e mezza dopo. Sì. E così io bevo 3 litri d'acqua al giorno. Fa queste lunghe pause, Gabriel. Sì, intanto... però soltanto in corrispondenza dei pasti, quindi colazione, pranzo e cena. Bisogna considerare tutte le bibite non acqua, quindi assumere l'acqua pura, senza gas, senza ghiaccio, senza caffeina o niente, tè o succhi. Questa è la ricetta di Gabriel e si trova molto bene. Noi la verificheremo e la sottoporremo ai nostri esperti. Intanto Gabriel, grazie per essere intervenuto a Cuore Denari e stia fresco anche lei. Buona giornata. Professor Settanni, torniamo a lei. Qui. Eccola, noi il ghiaccio lo buttiamo nei nostri cocktail per rinfrescare le nostre bevande, ci rinfreschiamo, voi il ghiaccio lo studiate, lo analizzate. Che cosa avete scoperto nelle vostre ricerche? Dunque, abbiamo analizzato vari campioni di ghiaccio provenienti dai 3 livelli produttivi che lei ha elencato prima e sì, abbiamo ritrovato in molti casi la presenza di batteri coliformi che sono di origine fecale. Questo sì, la cosa non è che ci faccia granché piacere. No, però forse ci può consolare il fatto che conferma delle precedenti ricerche condotte anche in paesi fortemente industrializzati, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, in cui gli standard igienici sicuramente sono elevati. Pertanto sono dei batteri da considerarsi ubiquitari quando le norme igieniche non vengono applicate o vengono applicate male. Entrando nel vivo della nostra ricerca siamo andati avanti rispetto a quello che già si sapeva per valutare il reale rischio connesso con il trasferimento di questi batteri enterici dal ghiaccio alle bevande. Quindi abbiamo preso i batteri potenzialmente patogeni, quindi sì, quelli appartenenti a specie che possono essere pericolose, e li abbiamo aggiunti a vari tipi di bevande. Fondamentalmente erano bevande alcoliche, gassate o zuccherine. I risultati hanno messo in evidenza che non necessariamente l'anidride carbonica delle bevande gassate o l'alcol inducono dei danni letali. Ma tuttavia i livelli più alti li abbiamo ritrovati nel tè alla pesca, che è una bevanda zuccherina sicuramente non gassata e non alcolica. Quindi sicuramente il ghiaccio che residua dalla bevanda quando l'abbiamo terminata non va consumato. Ecco, non, soprattutto ci sono delle persone che il ghiaccio proprio cercano di lo tengono in bocca per rinfrescarlo, lo succhiano, lo mordono cercando anche di avere la meglio sul cubetto. Ecco, questa è una cosa da evitare e mi sembra, dal professor Settanni, di poter commentare le sue ricerche con quello che non strozza ingrassa, ma nel caso non ci ingrassa. Assolutamente, fa solo da... fa solo danno, sì. Quindi attenzione, mi raccomando, il ghiaccio non preparatelo con cura, e quando andiamo al bar, professor Settanni, e quindi ci dobbiamo fidare e affidare del nostro barista e del ghiaccio che ci mette nel bicchiere, che cosa, quali attenzioni e precauzioni può suggerirci? Allora, io consiglio di non consumare ovviamente ghiaccio, mi riferisco soprattutto a quello, quando le condizioni non ci convincono. Ecco, se andiamo, se entriamo in un bar che ci sembra un po' non tanto pulito, ecco, la bevanda, prendiamo la fredda senza l'aggiunta di ghiaccio. Professor Settanni, esatto. Si mangi una granita per me, Deborah? Va bene. A me piace il caffè con la panna, Deborah? Il pistacchio mi va bene. È ancora qua Mauro Meazza? La mandorla va bene per okay, me, grazie. Così abbiamo e noi arriveremo, tutti. Grazie al professor Settanni, mercati, e poi andiamo a vedere come dobbiamo conservare i nostri alimenti, ma poi parleremo anche del pranzo ideale per l'estate, buono, sicuro soprattutto, e anche perché no, per chi, indicato per chi è attento alla linea, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sono arrivate le giornate calde, se ci fosse ancora qua con noi Mauro Meazza, che ha animato la nostra prima parte di Cuore Denari, sarebbe nuovamente stupito da questa nostra scelta. Lo so. Ma i nostri ascoltatori già ci conoscono bene, 800 24 00 24, immagino conosciate bene anche il numero per intervenire in diretta e per parlare con noi di strategie e metodi per restare o recuperare quella freschezza che queste giornate così calde mettono a rischio. Abbiamo parlato di ghiaccio, vogliamo parlare anche di dieta, perché il caldo stuzzica la voglia di fresco anche a tavola. Siamo portati a spegnere i fuochi per preparare piatti da consumare proprio preferibilmente freddi. Allora noi ci facciamo accompagnare in questo passaggio, in questo percorso, da un esperto, dal professor Luciano Azzori, biologo, esperto in sicurezza degli alimenti e in tutela della salute. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Perché il cambiamento delle nostre abitudini in estate deve comunque garantire, deve essere fatto in tutta sicurezza. Soprattutto dobbiamo mantenere la sicurezza dei nostri alimenti per evitare delle contaminazioni batteriche, ma è anche, perché no, e soprattutto per garantire anche e mantenere gli alimenti nel loro gusto e nel loro sapore. Professor Azzori, basta poco sbagliare, soprattutto quando la colonnina di mercurio sale. Io con lei farei partirei dall'ABC e quindi andrei a fare la spesa, perché allora, prima diciamo di che, ecco. La spesa deve subire qualche cambiamento rispetto alla routine che si è fatta durante tutto l'anno, specialmente in periodo invernale, cioè noi dobbiamo cambiare radicalmente alcune abitudini. Prima di tutto consumare più cibi che possano reintegrare ciò che perdiamo durante l'eccessivo caldo. Noi, quando c'è molto caldo, il nostro corpo tende a attuare dei meccanismi di termoregolazione che servono praticamente a che cosa? A mantenere costante la nostra temperatura corporea. E uno di questi meccanismi è la sudorazione, attraverso la quale prendiamo molta acqua e sali minerali. Quindi dobbiamo reintegrare quest'acqua e i sali minerali. Parole povere, dobbiamo mangiare molta frutta, molta verdura, possibilmente fresca e di stagione. Mi riferisco che può essere i pomodori, il melone, il cocomero e tanti altri. Professore, la natura ci mette sempre a disposizione il prodotto giusto nella stagione giusta. Verissimo. Quindi sante, se noi verissimo. Seguiamo le stagioni non sbagliamo. Adesso naturalmente non ci sono le castagne, ma no. Ci sono ecco, pesche, pomodori, albicocche, e se andiamo a vedere la carta d'identità, la composizione di questi alimenti, ci rendiamo conto, proprio come ha detto il professore, che assumendoli reintegriamo le perdite. Quindi... Non solo, ma pensiamo ad esempio, lei ha nominato le albicocche, io aggiungo le carote, sono ricchissime di tipo provitamina A, che è utilissima per tutelare la pelle durante l'esposizione al sole, quindi non è niente casuale, la natura ha pensato a tutto. L'importante è seguirla. Ovviamente in questa fase che sarebbe la nostra spesa bisogna anche diciamo mantenere costanti gli altri apporti, quindi parliamo di proteine, di vitamine e quindi anche consumare pesce ricchissimo di omega 3, di aminoacidi certo. essenziali, anche della carne in quantità moderata, mentre invece vanno evitati possibilmente o ridotti drasticamente alcuni alimenti, mi riferisco agli alimenti molto grassi, gli insaccati, agli snack che sono spesso ricchissimi di zuccheri e di sali, che non è il caso di prendere. Insomma, noi professore parliamo spesso di alimentazione, non consigliando i ristoranti, ma proprio per ma proprio per suggerire quali sono i piatti da scegliere, le combinazioni, e anche seguiamo un po' le indicazioni della cronobiologia. L'estate ci suggerisce, è una richiesta proprio del corpo, una dieta più leggera, ma nonostante le nostre scelte ci guidano verso quindi alimenti ricchi anche di vitamine, sali minerali, di acqua per reidratare e reintegrare le perdite, noi dobbiamo maneggiare questi alimenti con cura, perché il caldo può metterci lo zampino e rovinare tutto. Lei ha citato il pesce protagonista della nostra estate, lo mangiamo con più frequenza, con più piacere d'estate, ma attenzione, professor Azzori, quali sono le attenzioni e le precauzioni che dobbiamo adottare? Allora, il pesce è un prodotto altamente deperibile e questa deperibilità è direttamente proporzionale alla temperatura. Più c'è caldo, più rapidamente subisce delle trasformazioni, ovviamente le trasformazioni che non sono per noi salutari. Una di queste è sicuramente la produzione di una sostanza chimica, il cui nome è istamina, che è molto, ma molto pericolosa per la salute umana. Normalmente piccole dosi di questa sostanza recano una sintomatologia quali, non lo so, eruzioni cutanee, nausea, vomito, crampi addominali, tachicardia, dolori alla testa molto forti. Ecco, che sembrano così, ma se uno poi ce li ha tutti insieme, KO, Certo, sono frequenti, ma non sono disagi da questa, poco. Come si forma questa sostanza? Come possiamo evitare la formazione di questa nel pesce? Che non è riscontrabile, nel senso che non è che io con l'olfatto, con la vista, il pesce è fresco, lo vedo con l'occhio turgido, non può averne. No, non è così. Basta seguire la catena, mantenere costante la catena del freddo, perché se il pesce viene mantenuto costantemente ai suoi più 4 gradi, cioè la temperatura del frigorifero, anche durante il trasporto, che basta quell'ora e mezza, un'ora con questo caldo in macchina lasciato nel cofano, che quel pesce sta producendo istamina senza che noi ce ne accorgiamo, e uno dice sì, vabbè, ma tanto dopo lo cucino. Non c'è più grande errore, perché l'istamina è termoresistente, quindi quella è, quella rimane anche post cottura. Ecco, quindi non solo pesce fresco, ma come ha detto giustamente lei, mantenere le temperature sia durante il trasporto sia durante la conservazione nella nostra casa, decidiamo di comprarlo oggi e di cucinarlo domani, più 4 gradi nel frigorifero, non lasciarlo a temperatura ambiente. Allora, lo chiudo in un contenitore, il pesce, lo fascio questo, con le pellicole. Tutti gli alimenti devono essere, prima di essere messi in frigorifero, isolati o attraverso buste o contenitori in vetro o in plastica per alimenti, e sempre quindi isolati per non avere una contaminazione microbiologica. Questo al di là di tutto, ma è la temperatura. Infatti l'istamina è anche un indice di freschezza e di buona conservazione del pesce. Un pesce che ha un'alta quantità di istamina è un pesce che è stato esposto alle alte temperature, oppure un pesce, come si dice in gergo, stantio, cioè c'è già qualche giorno nei banchi frigo, insomma ha una vita post morte molto abbastanza lunga. Quindi mi raccomando, soprattutto il pesce si compra e si porta a casa, si mette in frigorifero bello chiuso e coperto e si cucina. Il pesce, quindi la cottura fresco, in questo caso non bonifica niente. Altro fattore invece è la ricrescita, la proliferazione dei microrganismi. Essendo una materia prima che già di per sé, come tutte le materie prime, ricche di microrganismi, se io lo lascio a temperatura, sempre lo stesso discorso di prima, ambiente, temperatura ambiente stiamo parlando di 18-20 gradi e non stiamo parlando di 36 esterni, i microrganismi aumentano di numero. Ecco, li invitiamo ad un party e quindi, perfetto, festeggiamo dentro il nostro corpo. Ecco, direi di no, ecco, no party. Professor Azzori, grazie per essere stato con noi. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade subito dopo, insieme al dottor Speciani. Invece la dieta per il caldo e soprattutto quanta acqua bere, perché sono arrivati molti messaggi: no col ghiaccio, sì col ghiaccio, gasata, non gasata, il panino. Gli chiederemo tutto, anzi chiederglielo voi, 800 24 0024. Voilà e torniamo. Cuore e denari. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ultima parte di Cuore Denari in compagnia con un grande amico degli ascoltatori di Cuore Denari e anche amico di Deborah e mio. Un po' nostro. Il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Ma buongiorno, che bello, una giornata di amicizia, come sono contento. Dottor Speciani, lei è uno degli specialisti più scaricati sui video che faccio per il... Cioè, nel senso che mi buttano via, sì, per il... certo, la prendiamo noi comunque, ormai sappiamo come conservare anche gli esperti dei video che ho il piacere di fare per il, sito del Sole 24 Ore, sì, li abbiamo chiamati più cuore che denari, e il dottor Speciani con la sua ricetta del panino per... il pranzo è tra gli specialisti, lo ripeto, più scaricati. Questo mi fa molto piacere. Dottor Speciani, allora, tantissime domande. Allora, fa caldo, che cosa bevo, che cosa mangio, a che cosa devo fare attenzione? Abbiamo parlato di ghiaccio in apertura e molti ascoltatori via WhatsApp mi hanno chiesto, ma per dissetare l'acqua va bevuta a temperatura ambiente o è meglio prenderla invece fredda o raffreddata con il ghiaccio? Dottor Speciani, partiamo da qua. Ma che bella domanda. Allora, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che l'acqua, anche se fosse tiepida, entra e reidrata, però è anche vero che l'acqua serve per scambiare la temperatura, come dire, per fare da scambiatore di calore. Allora, è un problema di abitudine, nel senso che ad una signora un po' attempata, abituata a mangiare solo brodini con piccole diete, attente eccetera, non suggerirei mai di bere delle bibite ghiacciate, ma io che ad esempio sono abituato a bere un'acqua bella, fredda, mi piace di temperatura, io ci aggiungo il ghiaccio serenamente, lo mangio a piccoli pezzettini in modo da non sovraccaricare lo stomaco, e questo contribuisce sia a idratarmi, quindi a portarmi acqua, e contemporaneamente a scambiare il calore dal caldo al freddo, e questo aiuta. Quindi in realtà quanto più si può bere qualcosa di fresco è buona cosa. Se l'organismo è abituato a mangiare anche delle bevande tendenzialmente più fredde, anche gelate, purché non si esageri, non si butti tutto giù di colpo, va benissimo anche questo. Insomma, sentiamo il nostro quello che ci dice il nostro corpo. Di solito è saggio e quindi recuperiamo la saggezza del nostro corpo. A proposito di saggezza, un ascoltatore ci ha chiamato per sottoporci la sua ricetta che ha letto in un libro di grande successo, ci ha detto io non lo conoscevo, confesso, e per tenersi fresco cerca di non bere fino a mezz'ora prima dei pasti principali e 2 ore e mezza dopo, mi sembra di aver capito così, e in questo modo quindi fa uno stop di assunzione di acqua, e in questo modo poi comunque nel corso della giornata continua a bere fino ad assumere, ci ha detto, 3 litri di acqua. La domanda che io vorrei farle è questa: quanta acqua bere? E poi ci sono delle ragioni che ci spingono a magari bere durante i pasti oppure ad astenerci dal bere durante i pasti per poi farlo nel corso della giornata? Poi, ma oggi tirate fuori delle domande che hanno costituito le polemiche degli ultimi mesi. Siete... sono le ultime, dottor Speciani, quindi mi scateno. Vabbè, poi meno male che presto andiamo in vacanza. Allora, dunque, c'è stata una lunga polemica perché fondamentalmente si è detto sarebbe bene avere uno scambio con l'acqua e facilitare l'eliminazione delle sostanze perfide che abbiamo dentro a volte e quindi raggiungere mediamente 1,5 litri, 2,5 litri d'acqua a seconda che uno sia maciste oppure sia un minuscolo esserino. Quindi è una quantità giusta, sensata, che io continuo a segnalare ai miei pazienti, ai miei amici, di bere abbondantemente, quindi da un litro e mezzo a seconda della temperatura ambiente di quello che c'è intorno. Ci sono persone che dicono assolutamente durante il pasto non bisogna bere perché diluiamo i succhi gastrici. Ma santo cielo, siamo capaci di digerire anche i sassi se vogliamo. E poi basta guardare gli animali come fanno, in realtà mangiano, bevono, mentre stanno mangiando, se hanno fame non si distraggono per bere, voglio dire, però appena possono, se hanno sete, stoppano, bevono e ripartono di nuovo. Quindi usiamo tranquillamente l'acqua, abbiamo una fisiologia dell'organismo che è in grado di adattarsi a tutto e quindi non c'è questa preoccupazione. Io poi sono dell'idea che quante meno regole, tipo quella del fermarsi mezz'ora prima, poi una due ore dopo, e sei sete, se il corpo ti dice guarda che il tuo corpo ha bisogno di acqua, cosa fai? Gli dici di no? No. L'acqua rimane tra gli elementi liberi, tra gli elementi in cui se abbiamo la percezione della sete dobbiamo bere. Non solo, dirò di più, che in una stagione come questa dobbiamo addirittura anticipare la sete, perché se iniziamo ad avere sete vuol dire che siamo fin troppo disidratati, come quando si fa sport. Bisogna abituarsi a bere, a idratarsi costantemente. Quindi sono abbastanza contrario a delle regole obbligate. È bene che ci sia una quantità d'acqua adeguata e purtroppo io vedo le persone che arrivano che stanno bevendo poca acqua hanno delle concentrazioni di pipì che sono terribili. Cioè sì, perché è un po' questa la cartina tornasole della nostra idratazione. Se la pipì è scura, vuol dire che non beviamo abbastanza. Esatto. Avrei voluto parlare con lei di panini, di schiscette, eccetera, ma tornerà. Ma intanto noi linkiamo al video che abbiamo fatto, perché gli ascoltatori via WhatsApp si scatenano e un ascoltatore dice sì, ma dopo due minuti, dopo aver bevuto l'acqua fredda, si suda il doppio proprio per lo scambio termico. Attenzione, ci sono delle persone che hanno una sudorazione abbondante e tendono, proprio perché magari questa cosa dà un po' di disagio, tendono a bere meno. Dottor Speciani, tanto la schiscetta ce la siamo dimenticate. Che cosa possiamo dire a questo suggerimento? Usiamo dell'acqua legata a della frutta. Ad esempio una ricetta che io suggerisco che è quella di mettersi della frutta, già ad esempio l'anguria, l'anguria a cubotti messa in freezer. Allora a quel punto uno si tira fuori l'anguria e la frulla, magari dopo averla lasciato un attimo riammorbidire, a quel punto hai dell'acqua che è legata a qualcosa di organico, quindi non ha questa velocità di assorbimento e quindi non sudi, stai rinfrescato e non sudi in maniera pesante. Chi ha questo problema non deve rinunciare all'acqua, deve trovare un modo furbo per farlo. Ecco, in questo metteremo naturalmente il pillolino idratarsi senza sudare di più. Vi piace il titolo? Bello, andate a vedere sulle nostre pagine. Un ascoltatore invece ci scrive: ma i bimbi quanto dovrebbero bere in estate? Le do 30 secondi. C'è un calcolo legato al peso? Diciamo per un bimbo di 20 kg con 6 anni di età? Non c'è un calcolo legato al peso, fidiamoci della sete del bambino, lasciamogli l'acqua da bere, continuiamo a dargli, il bambino è fatto tutto, quasi in gran parte di acqua e quindi bisogna seguirlo, non coprirlo troppo. Noi italiani, mamme italiane spesso hanno idea di coprire il bambino perché non sudi, invece è una modalità con cui può essere libero. Attenti a quando fa tanta pipì, questo abbiamo anche tutte le pubblicità in questo periodo che ci dicono attenzione, se il bimbo beve troppo non abbiate paura. Che il bimbo beva adeguatamente, in questo momento bere è indispensabile. La saluto, dottor Speciani, a prestissimo. A voi tutti, un abbraccio. Grazie. A domani. A domani.